dopo ogni estate viene l'autunno, alla mia porta non c'è nessuno, metto una virgola, tolgo il punto. È sera, guardo le foglie nel mio giardino, dalla finestra cadere piano, metto la pentola sul fuoco. Volo felice con quelle foglie nella mano, con le mie ali di un gabbiano, verso quell'isola di vento. Che ipocrisia, non son partito mai, sopra le onde del destino, una tempesta sul mio petto, colpo di tosse, un po' di affetto, basta così, linea a punto. Dopo aver scavato il mio sorriso nella mia bocca per un panino, apro parentesi e mi riposo. È tutto, ma mi riservo di proseguire l'altro foglio dopo esser sceso di qualche riga nel mio cammino. Poi straccio tutto, spalanco gli occhi nel futuro e mi nascondo dentro il muro, ma neanche qui sono al sicuro, meglio così, non ho gradito mai situazioni di ripiego, ma se domandi tutto nego, neanche una briciola di sfogo, non si sa mai, mi mangio tutto.